Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo chiaramente del tema migranti, del vertice Unione Europea-Turchia sul tema migranti, perché è un tema anche economico, nel senso che da quello che si è capito Ankara sta chiedendo, lo dico in maniera un po' brutale, più soldi. Lo ha detto lo stesso presidente dell'Europarlamento Martin Schulz, ha detto: la Turchia chiede all'Unione Europea altri 3 miliardi di euro per gestire la crisi dei migranti. Ce ne occuperemo anche perché, come ricordava il promo che avete appena ascoltato, da oggi, da questa mattina, dai GR delle 7 e delle 8, è iniziata la nostra inchiesta in Grecia, inteso come il bivio dell'Europa. Uno potrebbe dire, parafrasando, insomma, che lì o si tiene l'Europa o l'Europa muore, nel doppio senso che abbiamo raccontato molte volte che cosa sta succedendo alla Grecia, ai paesi più a nord, a partire anche dai paesi, mi riferisco all'Austria, che fanno parte dell'Unione Europea, dell'Euro, hanno chiuso le frontiere. Sta diventando un'enorme camera di compensazione per i migranti. I dati sono incredibili, anche perché vanno raffrontati con quella che è la popolazione e quindi il paese Grecia. Nello stesso tempo la Grecia è di nuovo in ginocchio, perché le riforme chieste non è che abbiano fatto migliorare l'andamento della sua economia, e quindi a mio avviso non è un'esagerazione retorica dire che in Grecia si stanno tracciando i destini dell'Europa, cioè o l'Europa tiene o l'Europa a quel punto inizia a scricchiolare pesantemente e a porre un serio dubbio sui motivi della sua esistenza. Per quello che riguarda il tema migranti e il tema sostenibilità economica della Grecia. Parleremo anche dei dati di oggi invece sulla disoccupazione, molto positivi, ma soprattutto sui licenziamenti. In realtà il dato non è solo sulla percentuale di disoccupati fatto centro la forza lavoro disponibile. Il Ministero del Welfare del Lavoro infatti ha fatto sapere che sono cresciute del 43% e mezzo le assunzioni stabili, 2.340.000 contratti a tempo indeterminato, 2.070.000 le cessazioni, quindi un saldo positivo di circa 300.000 persone, ma soprattutto i licenziamenti hanno fatto nel 2015 meno 8,5%. Questo non c'entra, diciamo, col Jobs Act, con la decontribuzione. C'entra con un miglioramento modesto, moderato, quello che vogliamo, ma della nostra economia. Ripeto, più 0,8% del PIL non è sicuramente una grande crescita, ma è sempre meglio della recessione che ci aveva accompagnato negli anni precedenti. Addirittura nel quarto trimestre del 2015 i licenziamenti sono calati del 15%, 42.000 in meno rispetto a quanto registrato nel quarto trimestre del 2014, ossia sono stati 243.000, ahimè, le persone licenziate, ma sono 42.000 in meno rispetto al 2014. I consulenti, e li ascolteremo, del lavoro dicono che, attenzione, a distanza, i consulenti del lavoro hanno elaborato i dati del Ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie e sostengono che praticamente grazie alle tutele crescenti calano i licenziamenti. Questo per via era marzo, era esattamente un anno fa praticamente quando entrò in vigore il Jobs Act. L'abbiamo spiegato molte volte. L'anno scorso abbiamo avuto due effetti sul mercato del lavoro. Il primo era la decontribuzione, che valeva dal 1 gennaio al 31 dicembre per i contratti fatti in questo periodo, fino a 8.000 euro in meno all'anno per 3 anni di contributi a chi assumeva tempo indeterminato. Poi a marzo è entrato in vigore anche il Jobs Act, e quindi l'eliminazione dell'articolo 18, tranne alcune fattispecie. I consulenti del lavoro ritengono che questo abbia contribuito l'introduzione del Jobs Act sul contratto senza articolo 18 per nuovi assunti abbia contribuito a ridurre il numero di licenziamenti. Arriveremo anche a alcune dichiarazioni su questo, ma ne parleremo. Parleremo anche di come sfruttare il famoso petrolio o giacimento di petrolio italiano, mi riferisco al nostro turismo. Perché figuratevi se perdevamo la possibilità di commentare quanto è successo alla Reggia di Caserta, ossia la protesta dell'organizzazione sindacale di base contro il direttore perché è accusato di lavorare troppo e creare degli standard, diciamo, inaccettabili anche per gli altri lavoratori. C'è un'intervista molto bella che ha fatto il nostro Alessio Maurizi per Si può fare, il programma di Radio 24 non dal sabato e la domenica mattina, che vorrei farvi ascoltare perché dentro c'è tutto. Ma parleremo del giacimento culturale perché all'Enit, il mitico carrozzone di Stato che mancava ancora l'appello, perché l'ICE oggettivamente è stato riformato e sembra lavorare in maniera più produttiva, l'Enit invece no. Noi abbiamo raccontato moltissime volte dell'assurdità di un ente che dovrebbe spingere e incentivare il turismo verso l'Italia, quindi lavorare in accordo anche con altri soggetti per portare i turisti in Italia. Faccio notare che quello tedesco e quello francese funzionano benissimo, e invece è sostanzialmente un ente che paga gli stipendi ai suoi dipendenti, però sono cambiati i vertici, ci sono nuovi manager con impronta più privatistica. Cercheremo di capire quale sfide abbiano, anche perché è inutile girarci attorno, continuare a vedere che ci sono più turisti che vanno su certe rotte, penso al Mar Rosso prima della crisi, diciamo, e dell'allarme terrorismo, rispetto alla Sicilia e alla Calabria, è per noi uno schiaffo continuo. E aggiungo una cosa: proprio le tensioni internazionali, è un po' cinico dirlo, ma è così, stanno offrendo un'enorme possibilità per l'Italia e per il Sud Italia, perché i turisti stranieri stanno ridefinendo le rotte, e chiaramente il Nord Africa e l'Egitto in particolare, ma non solo, vengono considerate più a rischio. Se però non vuoi fare turismo, non lo sai fare, non ti interessa farlo, o peggio ancora tratti il turista come selvaggina da passo, poi non ti devi lamentare. Di questo parleremo. Iniziamo però dai dati sulla disoccupazione, o meglio sui licenziamenti, perché a questo sono dedicati i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, a firma oggi del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Nel 2015 i rapporti di lavoro che si sono interrotti a causa di un licenziamento sono stati circa 840.000, in diminuzione di oltre l'8% rispetto al 2014. Il calo più consistente si è registrato nell'ultimo trimestre dell'anno, con una riduzione di quasi il 15% rispetto all'anno prima. La notizia, che è contenuta nelle rilevazioni del Ministero del Lavoro sulle comunicazioni obbligatorie delle aziende, è di certo una notizia positiva che in qualche modo va nella direzione di confermare che, pur in un contesto occupazionale che rimane complicato, si può vedere qua e là qualche piccolo segnale di ottimismo. Ma il dato sull'andamento dei licenziamenti è interessante anche per un altro motivo, legato al fatto che esattamente un anno fa, il 7 marzo 2015, è entrato in vigore per i nuovi assunti il contratto a tutele crescente previsto con il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro. Sappiamo che intorno all'applicazione di questo nuovo sistema, che comporta il superamento di molte delle tutele previste dal vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, c'è stato un acceso confronto, talvolta un vero e proprio scontro sul tema del maggior ricorso ai licenziamenti che la norma avrebbe comportato. Bene, i dati di oggi sembrano però suggerire che il nuovo contratto a tutele crescenti non ha determinato alcun aumento dei licenziamenti, e anzi i licenziamenti sono un po' diminuiti. Vedremo naturalmente come andrà nei prossimi mesi, ma almeno per ora il debutto del Jobs Act è stato positivo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi, come sempre, al 349-238-6666, sia sotto forma di SMS che di WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, adesso arriviamo al primo tema che abbiamo, proprio i licenziamenti. Però una cosa la dico, un po' come col PIL. Uno può pensarla come vuole, può pensare che il dato sia ancora insufficiente, lo è sicuramente, però a mio avviso nessuno può tifare per il tanto peggio, tanto meglio. Vale sul PIL, vale, cioè uno deve, comunque la pensi su Renzi, sul governo, sulle sue capacità o incapacità, però deve tifare perché il numero di licenziamenti si riduca, il numero di occupati aumenti e il PIL continui a crescere e magari crescere un po' di più. Cioè è inutile buttarla in tifoseria, visto che qualcuno mi scrive dalla Genova blucerchiata, non capisco per quale motivo, ma insomma non buttiamo almeno i dati economici in tifoseria, per favore. La borsa meno 1,70% con un MIBTER che scende seppur di poco sotto i 18.000 punti, Parigi meno 0,50%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 0,45%, oggi c'è anche un vertice Eurogruppo, però così, in questo momento mi sembra più interessante, da quello che sta uscendo, il vertice tra Unione Europea e Turchia. Bene oggi Saipem più 6,25%, Ferragamo più 3,30%, Moncler più 1,30%, Poste più 1,1%, Tenaris più 0,80%, Ferrari più 0,70%. Ferma Eni, nonostante il petrolio oggi sia ai livelli più alti da tre mesi a questa parte, a New York è scambiato intorno ai $36-$36.50 al barile. Tra l'altro l'Azerbaigian oggi ha dato il suo ok al congelamento delle estrazioni di petrolio, quello ipotizzato dalla Russia e da alcuni paesi dell'OPEC. Per quello che riguarda le materie, diciamo, prime ma non petrolifere, oggi c'è stato un balzo vero e proprio dei prezzi dei minerali ferrosi, ossia la materia prima per le acciaierie, più 19%. E questo perché ci si aspetta che il governo cinese stimolerà ulteriormente la sua economia. Nel frattempo sono usciti i dati sull'andamento dell'economia cinese, le previsioni sull'andamento dell'economia cinese per il 2016. Le stime sono di una crescita tra il 6,5% e il 7%. La soglia minima è il 6,5%, ricordo che si è chiuso il 2015 con un più 6,9%. Che è il tasso più basso di crescita cinese da 25 anni a questa parte. Più volte abbiamo ricordato che un PIL in crescita del 7% per la Cina è lo spartiacque tra economia in crescita e stagnazione economica, cioè è quella percentuale che permette al governo cinese di mantenere questo flusso dalla campagna alla città di inurbazione, quindi insomma, quello che è successo negli ultimi 20 anni. Può sembrare una cifra enorme per noi, il 7% di crescita, per la Cina è il minimo indispensabile, per non parlare di un'economia che si è fermata. E quest'anno le stime sono tra il 6,5% e il 7%. Il premier Li Keqiang, comunque, nel discorso di apertura del Congresso Nazionale del Popolo Cinese, ha detto che vuole accelerare sulle riforme, anche dolorose, in modo da spingere la produttività e aumentare i salari, in modo che la Cina compie questa transizione da solo manifattura, quindi grande fabbrica del mondo, a immenso mercato di consumo dei prodotti, e quindi anche dei prodotti europei, quindi anche dei prodotti italiani. Una buona notizia arriva da Wall Street e dalla Gran Bretagna, perché da un lato Wall Street nel 2015 i bonus elargiti ai manager sono calati di quasi il 10% rispetto al 2015, rispetto al 2014. L'assegno medio è stato di $146.000 contro i $160.000 dell'anno prima e i $169.000 del 2013. L'anno record resta quello precedente allo scoppio della crisi, il 2006, con una media di bonus di $190.000 in media per i manager di Wall Street. Allora, arriveremo anche al tema dei migranti. Sono d'accordo con chi dice, insomma, diamo altri 3 miliardi alla Turchia e nulla alla Grecia. No, la Grecia ha ricevuto qualcosa come promesse perlomeno dall'Unione Europea, bisogna capire che cosa promette la Turchia, perché anche la Grecia converrebbe una Turchia che insomma mantiene, contiene soprattutto i flussi migratori, ma vi arriveremo. Invece vorrei andare rapidamente a alcune notizie di carattere italiano, o meglio, da un lato che riguardano anche l'Italia. Parlavo del vertice Eurogruppo, oggi il commissario degli affari economici Pierre Moscovici ha detto: in Italia c'è un clima nuovo, ma bisogna guardare alla sostanza. Ok, i paesi possono avere un certo grado di flessibilità, ma le regole vanno rispettate. Domani la Commissione prenderà le decisioni che deve prendere. Noi siamo in contatto col governo italiano. Io stesso ho avuto un incontro con il signor Padoan a Shanghai e continua lo scambio di informazioni con la prospettiva di voler trovare un accordo. C'è un certo grado di flessibilità di cui l'Italia può beneficiare e ci sono anche dei criteri e delle regole da rispettare. Continuiamo a cercare un accordo, credetemi, in un modo estremamente attivo, lettera o non lettera. Come sapete, la visita di Juncker a Roma ha permesso di avere un nuovo clima. Ma una cosa è il clima, un'altra è la sostanza, e a volte è un po' diversa. Sono fiducioso che l'accordo che stiamo cercando con l'Italia lo troveremo. E il ministro Padoan ha detto che con Bruxelles il clima è sicuramente migliorato, ci sono molte cose su cui stiamo lavorando insieme, il debito scenderà, bisogna sfruttare i margini di aggiustamento. Stiamo aspettando il via libera definitivo sulla flessibilità, mi sembra che ci sia il riconoscimento che il debito si è stabilizzato e quindi comincerà a scendere e che ci sono alcuni margini di aggiustamento che andranno sfruttati. Poi parleremo appunto anche dei premi Leonardo, dell'intervento del Presidente della Repubblica e ci collegheremo con la nostra inviata in domenica al confine tra Grecia e Macedonia. Però vorrei partire dai dati sul Ministero del Lavoro, fermo restando che la situazione della disoccupazione in Italia è ancora molto grave e lo è ancora di più sulla disoccupazione giovanile. Il Ministero del Lavoro oggi ha diffuso i dati: più 43,5% di assunzioni stabili in un anno, 2.340.000 contratti a tempo indeterminato contro 2.070.000 cessazioni, quindi sono quasi 300.000 in più. I licenziamenti sono calati dell'8,5% nell'ultimo trimestre dell'anno, meno 15%, oltre 42.000 in meno rispetto a un anno prima. E ripeto, i consulenti del lavoro dicono che questo è dovuto anche al Jobs Act, cioè ai neoassunti di fatto senza articolo 18. Chiedo al presidente di ADAPT, che è un'associazione senza fini di lucro fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere a livello anche internazionale di comparazione studi e ricerche nell'ambito del lavoro e delle relazioni industriali. Presidente Emanuele Massagli, buonasera. Buonasera. Chiedo, è d'accordo con i consulenti del lavoro, cioè c'entra anche la riforma del mercato del lavoro in questi minori licenziamenti? Perché così a prima vista uno direbbe: beh, ci sono minori licenziamenti perché forse l'economia è leggermente migliorata e si è sicuramente stabilizzata, cioè abbiamo fatto un più 0,8 ma non c'è segno meno. Chi aveva licenziato negli anni scorsi l'aveva già fatto. Quanto conta la riforma del mercato del lavoro? Conta più che altro come segnale di cambiamento, però da un punto di vista di un nesso statistico in questo caso probabilmente non è questa discriminante, anche perché ricordiamo che le nuove regole di licenziamento si applicano per i lavoratori assunti dopo marzo, per cui è una parte veramente molto piccola ancora del mercato del lavoro, quindi questo è un dato che riguarda tutto il mercato del lavoro, riguarda tanto le comunicazioni obbligatorie, quindi rapporti e non persone, e quindi se vogliamo la componente del Jobs Act è ancora piuttosto bassa. Conta di più il fatto che la curva dell'occupazione pare essersi arrestata e timidamente dà qualche segno di ripresa. Allora, mamma mia, qualcuno mi sta scrivendo su altro, poi che risponderò a alcuni messaggi di altro genere. Senta, però, il dato sulle assunzioni stabili, Massagli, al di là delle polemiche, che sono state anche alimentate da una confusione, l'abbiamo detto più volte, nella diffusione dei dati, soprattutto nei primi mesi dell'anno, e l'INPS, e l'Istat, e il Ministero del Lavoro, non si capiva più niente. Però adesso il Ministero dice sono il dato dell'assunzione netto più 43% delle assunzioni stabili. Lì c'entra il Jobs Act? Lì c'entra decisamente. Lì c'entra il Jobs Act, anche se buona parte degli osservatori neutrali, il merito lo danno innanzitutto all'esonero contributivo, che è vero, certo, che è stato concepito insieme al Jobs Act, ma è iniziato prima, però è una misura della legge di stabilità, esatto, che è iniziato a gennaio dello scorso anno, è determinato nella modalità così generosa come quella del 2015, è terminato a dicembre, e infatti i dati, questo ragionamento è dimostrato dagli stessi dati del Ministero del Lavoro, che notano nell'ultimo mese, nel mese di dicembre, una crescita esponenziale dei contratti a tempo determinato. Perché? Perché chi sapeva di dover assumere ha fatto la corsa per assumere col vecchio esonero e non col nuovo esonero. Certo. Senta, da questo punto di vista, è chiaro, insomma, l'abbiamo detto anche, quest'anno c'è di contribuzione, ma è la metà, sono 4.000, massimo 4.000 euro al mese, all'anno, di contributi in meno contro gli 8.000. Dura due anni, non tre anni. Un'ultima domanda che ho per lei, però, riguarda lo scenario di fondo, al di là delle polemiche che fanno gli ascoltatori, alcuni ascoltatori, al 349-238-6666. Però, se io le dicessi che ormai quello che si poteva fare sul fronte del mercato, della legge sul lavoro, cioè fronte alla politica, governo e Parlamento, è stato fatto, e a questo punto, diciamo, i dati non miglioreranno in maniera sensibile, se lo sono già migliorati, ma insomma, se non riparte l'economia, cioè che ormai dal punto di vista legislativo non si possa fare più molto? Sicuramente, anzi, questo continuo reiterare di riforme del lavoro, ne abbiamo viste 5 in 5 anni, incrementano l'incertezza sul mercato, non la sicurezza. È chiaro che è più facile fare una riforma del lavoro e sperare che la modifica delle regole di un contratto aumenti l'occupazione che cambiare l'economia, che non è ovviamente nelle disponibilità piene del nostro governo, ma la speranza è che smettano le riforme del lavoro, e adesso viene la fase degli interventi selettivi, perché è vero che i dati che stiamo osservando negli ultimi mesi sono dati positivi, ma bisogna andare a vedere chi sta godendo di questi dati positivi. L'esonero contributivo, per come era concepito, andava avvantaggiato soprattutto i lavoratori più produttivi, no? Quindi il maschio adulto istruito. Bene, bisognerà adesso concentrarsi su chi è rimasto escluso dalle riforme ed escluso dall'esonero, che sono le fasce di popolazione più deboli sul mercato. I giovani, e infatti lei ha detto prima, il tasso di disoccupazione giovanile continua a essere uno dei peggiori in Europa, le donne, in particolare nel mezzogiorno, i lavoratori poco qualificati e gli stranieri, la cui disoccupazione è cresciuta di 3 volte rispetto a quelli italiani. Quindi a questo punto, diciamo, la politica, la legge può fare, cioè, non può fare più nulla, bisogna aspettare che riparta l'economia in maniera sensibile. Insomma, indubbiamente, quello che può fare la legge, che il governo ha intenzione di fare, è intervenire su quel lato del diritto del lavoro che finora ha ignorato, che è il lavoro autonomo. Il lavoro autonomo, certo, continua a crollare, ma in effetti è stato totalmente svantaggiato dalle normative degli ultimi anni, e infatti il governo ha presentato un collegato lavoro che si occupa anche di questa materia. Però a parte questo, a un certo punto dovrà arrivare il momento per l'implementazione, non solo per la costruzione delle riforme. Perfetto, si fa per dire, nel senso che anche qui vedo molti che, ripeto, per favore, possono esserci altri programmi, altri temi, per esempio il calcio, qualcuno mi sta scrivendo perché ho detto che, scherzando venerdì scorso, che a Verona esiste solo il Chievo, al massimo rispetto per tutto il campionato di Serie A, Serie B, figuratevi, era una battuta da tifoso, però il tifo lasciamo a altri temi. In questo momento vedere dei dati in miglioramento fa comodo ed dovrebbe essere positivo per tutti. Dopodiché, abbiamo appena detto, se vogliamo dare un'articolazione alle analisi e non solo schierarci tra guai e fighi bellini, che il governo può sistemare qualcosa, certo, sulle partite IVA sono d'accordo, a mio avviso il Jobs Act andava applicato anche alla pubblica amministrazione, e come, però se a questo punto l'economia non torna ad avere dei tassi di crescita un po' più insistiti, il recupero di posti di lavoro sarà molto molto graduale. Grazie Emanuele Massagli, presidente di Adapt Meteo e Pubblicità, e poi parliamo del nostro giacimento, che dovrebbe essere il nostro oro, sia il turismo, così non è, e chiaramente partiamo anche dalla Reggio di Caserta. Focus Economia. Allora, adesso arriveremo alla borsa che ha chiuso Milano in calo dell'1,20%, meno 0,30 a Parigi, meno 0,50 a Francoforte e meno 0,30% anche Londra. Però non potevamo, essendo noi titolari della classifica, della meno invidiabile classifica di tutta la radio, quella del venerdì sugli sprechi della pubblica amministrazione, non commentare purtroppo quella di Casetta, ci è arrivata troppo tardi. Quanto è accaduto a Casetta? Allora lo dico perché, insomma, chi conosce la Reggia di Casetta sa che patrimonio poco sfruttato è quello. Ci sono state nomine di direttori, alcune contestate, ma non mi frega nulla, dei vari musei, fatte anche prendendo direttori stranieri, ma non è questo il punto. Cosa è successo a Casetta? Perché si fosse perso le puntate precedenti, è successo che, visto che c'è un nuovo direttore, Mauro Filicori, i sindacati, le sigle dei sindacati che rappresentano i lavoratori della Reggia di Casetta, hanno scritto a Filicori, anzi al ministero dei beni culturali, quindi al ministro Franceschini, lamentando la permanenza di Filicori troppo a lungo la sera nel suo ufficio, cosa che metterebbe a rischio la gestione stessa della Reggia di Casetta, perché obbligherebbe a fare straordinari, non c'è il personale, insomma. Lavora troppo Filicori. È stato ospite con Alessio Maurizi a Si può fare sabato su Radio 24. Ascoltiamo questo passaggio perché lì dentro c'è tutto di quello che non va nella logica sindacale, in primo luogo sui nostri beni museali. Aggiungo, così creiamo subito un po' di, che a mio avviso dovremmo iniziare fra un po' anche a distinguere, lo dico con massimo rispetto per CGL, CISL e UIL, tra i sindacati che sono sindacati di settori privati e i sindacati che difendono il pubblico impiego, a prescindere sempre e comunque. È vero che poi CGL e la Camusso si è dissociata da questo atteggiamento, però quella è la base che noi raccontiamo spessissimo nel pubblico impiego, nell'amministrazione pubblica, il tipo di base sindacale, sempre a difendere tutti e mai a difendere il merito. Sentiamo Filicori. Io sono rimasto esterrefatto perché, non, a parte, diciamo, il fatto, sì, in sé che lamentarsi di un direttore che lavora è paradossale, ma comunque, sì, oltre a questo non c'è nessuna base, nel senso che la Reggia è vigilata 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi non si corre nessun rischio per la sicurezza. No, anche perché io l'ho detto in rassegna stampa ai sindacati e ai lavoratori: come fate a lamentarvi di un direttore che lavora e fa le ore piccole dentro l'ufficio? Perché non è che chiede a voi di fare gli straordinari, è lui che lavora. No, certo, non produce neanche un minuto di straordinario. Esatto. A parte che comunque il direttore di un'azienda grande, noi abbiamo 250 dipendenti, non si scherza, potrebbe anche avere il diritto di lavorarci, no, anche la notte, di fare quello che gli pare. Non sarebbe paradossale comunque, ma in questo caso non c'è veramente nessuna base, neanche un minuto di costo in più produce il mio lavoro. Tra l'altro, noi ci eravamo sentiti, Filicori, all'indomani della sua nomina, tifavamo per lei, conoscendo il suo curriculum, speravamo che potesse tentare di rilanciare la Reggia. Lei ci ha provato ed è questo poi il motivo che molti giornali evidenziano, che potrebbe avere spinto un po' i sindacati in realtà a far uscire questa lettera. Cioè, lei ha tolto il martedì, che era un giorno di riposo, si lavora 7 giorni su 7, chiaramente con dei turni, ha chiesto ai dipendenti, mi dica poi se sbaglio qualche cosa, di non girare in borghese per la Reggia ma con le pettorine, di non utilizzare l'auto privata nel parco della Reggia, ma no, adesso questi, no, in realtà forse c'è il timore che, sì, io faccia tutto questo, ma io sono lì da 5 mesi, non, sì, è un'unità di tempo significativa in una pubblica amministrazione, neanche in un'industria privata. Tutto questo fa parte dei miei propositi, però ho cominciato a, intanto ho fatto una comunicazione, ho, sì, cominciato a dare una nuova organizzazione all'azienda, ho cominciato a nominare i componenti della squadra che si assumerà la responsabilità di questo processo. Dunque, lei sa com'è, insomma, si dice che le cose vanno male, poi quando si prova a cambiare c'è sempre chi nella vecchia situazione, quella che in teoria andava male, si trovava meglio le sue proprie benissimo, però adesso poi ci salutiamo Filicori, però questa volta è successa una cosa diversa rispetto al passato. Il segretario del principale sindacato italiano, la Susanna Camusso della CGL, ha dato torto, ha disconosciuto questa lettera di questi sindacati. È sorpreso? Le fa piacere? Beh, naturalmente mi fa piacere. Diciamo, in un'azienda efficiente i lavoratori stanno meglio, non stanno peggio. Cioè mettere in contraddizione efficienza e diritti dei lavoratori è totalmente insensato. Il primo diritto di un lavoratore è avere un'organizzazione adeguata, avere dei capi che lavorano, il lavoro, no? Il prossimo obiettivo che si pone per valorizzare la Reggia qual è? Noi il 1° giugno apriamo la collezione Terremotus, è una delle collezioni di arte contemporanea più importanti del mondo. Negli anni se ne pensa alla conoscenza, eppure stiamo parlando di una collezione con Andy Warhol, Rauschenberg, Kiefer, Beuys. In parte non si potevano vedere, in parte erano mal collocati, non è mai stata vista tutta assieme. Nei locali che ci ha consegnato l'Aeronautica e la scuola di amministrazione, per la prima volta li vedremo tutti assieme ben collocati. All'interno sarà della Reggia? All'interno della Reggia. Sarà perfetto. Come aprire un nuovo museo di arte contemporanea. Per me sarà l'evento del... Quante 2016. Opere saranno? Sono 76 opere di grandi dimensioni. Sì. È la collezione che Lucio Amelio vuole dedicare al terremoto nell'Irpinia. Ed è sarà veramente l'evento dell'anno. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, vabbè, il sogno è palese, è non avere più a che fare con questi sindacati, soprattutto nel pubblico impiego. Ripeto, i sindacati che noi vediamo nelle aziende sulla contrattazione di secondo livello, quando lavorano nel privato, cioè tutelano giustamente in primo luogo gli occupati, l'occupazione a costo anche di chiedere sacrifici, cioè hanno una ragionevolezza che ha un obiettivo, difendere i lavoratori. Nel pubblico impiego si difendono le posizioni a prescindere, questo è drammatico e va chiaramente a danno di chi lavora bene e si vede mortificato ogni giorno. Lavora troppo, meno male che la Camusso li ha contestati, e devo dire anche Barbagallo della UIL li ha contestati. Non so quali siano i procedimenti disciplinari dentro il sindacato, però se vi fossero sarebbe il caso anche di fare qualcosa, perché veramente è incredibile questa cosa. Ed è su questo, con questo tessuto che dovrà confrontarsi la nuova Enit. Cos'è l'Enit? È il mitico carrozzone di Stato che, invece che in questi anni aiutare a promuovere il turismo italiano, ha aiutato a promuovere solo se stesso. Perché lo dico? Perché ancora a fine 2015 i 78 dipendenti dell'Enit erano in trincea perché diffidavano il governo dal creare una nuova agenzia per il turismo, anche perché uno su due era già quadro o dirigente. La busta paga era più alta che alla Casa Bianca. Era stato affidato tutto quanto a un commissario, Cristiano Radaelli, incaricato di dare una sistemata ai costi e avviare anche la conversione dell'ente statale in un'agenzia per il turismo. Ma protestano i dipendenti che non vogliono perdere il loro status, sia i precari di Promovitalia. Ci sono 7 sigle sindacali interne che hanno affidato agli avvocati questi ricorsi, 7 sigle per 78 dipendenti, vuol dire che c'è un sindacalista per ogni 11 dipendenti, ma voglio dire, ma neanche durante la Rivoluzione Francese. Allora, hanno intimato a Palazzo Chigi: non fate più un passo in avanti. Se ne fregano del fatto che l'Enit abbia solo perso soldi, ma li abbia persi per pagare i dipendenti. C'erano un centinaio di dipendenti stranieri per 23 filiali, c'erano perché non ci sono più. A New York aveva aperto la sede a Rockefeller Center, no? Costava 400.000 euro l'anno. A Vienna spendevano ogni anno 20.000 euro per i giornali nella sede Enit, 77 euro di giornali ogni giorno lavorativo. Poi l'unico giornalista dell'ufficio stampa, l'unico dell'Enit, che non abbiamo mai avuto il piacere di conoscere, ci siamo occupati dell'Enit mille volte ma non ci ha mai contattato, si era fatto riconoscere la qualifica di direttore, cioè che è direttore di se stesso, cioè cosa dirigi se sei l'unico? Misteri della fede. E poi vari manager piazzati da vari governi, il brambilliano Paolo Rubini, nominato direttore generale pur avendo nel suo curriculum solo la vicepresidenza di un'azienda specializzata nel congelamento di cordoni ombelicali, non sto scherzando, fu nominato direttore generale. E poi dirigenti mandati all'estero, per conquistare il mercato cinese e aggredire il mercato cinese, mandammo a Pechino l'ex segretaria comunale dei comuni di Zeme, Pavia, Velezzo, Pavia, Landirago, Pavia, Bascapè, Pavia, Affille, Roma, Labico, Roma. Cioè l'ex segretaria comunale andò a fare sta cosa. E poi un suo collega inviato in Brasile non riuscì, doveva rappresentare l'Enit in Brasile e aiutare i turisti brasiliani a venire in Italia. Peccato che non riuscì a ottenere il visto, cioè qualunque turista che vuole andare in Brasile ha il visto, e quindi restò ad aggredire il mercato brasiliano da Buenos Aires. Comodo, no? Indennità varie che potevano arrivare a 20.000 euro netti al mese per lo stipendio, 300.000 euro puliti puliti ogni anno. Questa era l'Enit che ancora difendono i vecchi. I sei distaccati d'oro hanno fatto tutti quanti causa, li hanno fatti rientrare a Roma e hanno perso, per fortuna. L'Enit ha risparmiato così 1.900.000 euro. C'è appunto una macchina di sprechi. Pensate che l'Enit costa 20 milioni di euro l'anno, ma è riuscito a spendere 140.000 euro l'anno per comprare giornali e riviste, e appunto i sei rientrati dalle sedi estere arrivavano a guadagnare, oltre lo stipendio di base, altri 17.000 euro. Allora, Fabio Lazzarini è non solo direttore generale di Emirates Italia, ma è il consigliere delegato di Enit, perché il governo ha deciso, il ministro Franceschini, di riformarla. Buonasera innanzitutto, Lazzarini. Buonasera, Sebastiano. È depresso dopo quello che ho letto, eh? No, dopo il traffico, no, ci racconta che Enit ha trovato e come intende, o se ha paura di fare la fine del direttore della Reggio di Caserta, ma diciamo come intende modificare un soggetto che non va chiuso, va rilanciato. Abbiamo bisogno dell'Enit per promuovere il turismo, per promuovere l'Italia verso i turisti di altri paesi, come abbiamo bisogno dell'ICE per le imprese italiane che vanno lì ad esportare. Traffico. Focus Economia. Allora, Fabio Lazzarini, poi l'avremo anche nella seconda parte, ma insomma, è sconfortato oppure tanto era messa male l'Enit che i dipendenti arrivarono a chiedere a Renzi basta rottamatici, forse è la volta buona che la riformiamo? No, depresso no, hai dato prima un quadro sicuramente non idilliaco della situazione, però è il passato, e è il passato, c'è stata una riforma che il ministro Franceschini ha fortunatamente voluto con l'appoggio di tutto il governo e del Premier per riformare un ente. Tu hai chiuso bene, secondo me, prima del traffico, dicendo che dell'Enit si ha bisogno, o dell'Enit, o di un ente che faccia promozione del turismo, che dovrebbe essere una delle nostre risorse principali. Mm-hmm. Secondo me anche la visione dei costi che tu hai elencato, che presi così ovviamente fanno un pochettino scandalo, però il problema non è tanto di quanto costava l'Enit, forse era più che altro di quanto rendeva l'Enit, nel senso che nel passato l'80% dei fondi venivano spesi per gli stipendi, ma anche perché i fondi all'Enit negli ultimi anni se ne sono dati molto pochi, quindi abbassando il denominatore. Sì, oddio, 20.000 per uno che sta all'estero e spende i giornali non si capiscono comunque. Però dopo, Lazzarini, facciamo una cosa, dopo il GR24 lei mi racconta alcune iniziative, perché l'Enit non ha partecipato a Madrid all'appuntamento con uno dei più importanti europei, Fitur, ha cancellato il suo nome dalla presenza alla BIT. Io vorrei capire come concretamente, guardiamo al futuro, intendete rilanciarla nella speranza per tutti noi, per il paese, che ce la facciate. Dopo il GR24 poi andremo anche invece a confine tra Grecia e Macedonia. 349-238-6666 per i vostri sms. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. L'Europa al bivio greco, con Radio 24, nel cuore della crisi. Dal 7 al 12 marzo, Radio 24 vi accompagna in un viaggio nel paese che più di tutti racconta la profonda crisi dell'Europa contemporanea. Immigrazione e scontro con Bruxelles, crisi economica e occupazionale, crisi di identità di un paese che si riflette sull'intero continente. Dai domeni, dove migliaia di migranti premono alle porte della Fortezza Europa, fino ad Atene, dove il governo cerca i mezzi per sostenere un'economia in ginocchio. Radio 24, con i suoi inviati, i suoi conduttori e gli esperti in studio, percorre le strade della Grecia per cercare di comprendere il cammino dell'Europa. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dottor Lazzarini, visto che lei ha preso in mano, voglio dire, è sicuramente un onere quello di rilanciare Enit, e viene dal privato, nel senso che è direttore generale di Emirates Italia. Le prossime fasi, visto che abbiamo ricordato come l'Enit sia stato assente a Madrid e anche alla BIT, prego. Allora, dottore, grazie. Sì, è vero, siamo stati assenti alla FITUR, siamo stati assenti alla BIT. Le nuove fasi sono, tutte le nostre scelte sono legate a un piano che stiamo sviluppando. Lei tenga presente, siamo partiti, l'ha ricordato un pochettino prima della pausa GR, la storia dell'Enit degli ultimi anni, che è stata una storia di grandissimo successo e di grandissima continuità. Per cui stiamo rilanciando dall'8 ottobre, quando ci siamo insediati come nuovo CDA, stiamo rilanciando completamente l'attività dell'Enit, che era fondamentalmente fermo. Stiamo rilanciando per realizzare quello che sia il ministro Franceschini che il governo tutto, con il beneplacito assoluto del Presidente del Consiglio, hanno voluto, ovvero sia avere una struttura più snella. Noi, come in tutte le aziende private, visto che giustamente ha ricordato che io vengo dal privato, io ogni tanto me lo devo ricordare anch'io, perché in questi mesi di pubblico si rischia di perdere la bussola, come in ogni azienda privata noi partiamo da alcuni punti fermi. Il primo è l'esame della domanda, l'analisi della domanda. Noi facciamo un lavoro meraviglioso perché promuoviamo il turismo di un paese che è nato per fare il paese che vive di turismo, poi ce lo dimentichiamo spesso perché siamo nati in mezzo a queste bellezze e ce le dimentichiamo. L'analisi della domanda, per sia capire quali sono i mercati in cui si può lavorare. Lei ha citato le fiere, prendiamo questo esempio qui. Un paio d'anni fa l'Enit andò quasi una trentina di fiere. Noi quest'anno abbiamo elaborato un piano fiere estremamente più asciutto. Noi andremo a 10 fiere internazionali del turismo e a 3 sul turismo congressuale, che sono fiere che sono fondamentali, sono globali, sono le fiere in cui gli operatori globali vanno e dove possiamo portare l'Enit e l'Italia a un livello di professionalità che l'Italia merita. È inutile andare nelle piccole fiere dove sicuramente no, c'è ma una buona esposizione, d'accordo, Per cui noi siamo andati, e la BIT stessa è una fiera dominata giustamente dalle regioni. Il ruolo dell'Enit sarebbe stare lì a fare da collante tra le regioni che hanno invece dei padiglioni enormi dove incontrano gli operatori stranieri. Per cui noi andiamo nelle fiere dove è importante esserci, dove vanno gli operatori globali, garantendo un'uniformità di brand, quindi un brand uguale, lo stand uguale, la proposizione uguale, ospitando le regioni, ospitando i soggetti privati, ma anche promuovendo l'Italia in generale. La cosa fondamentale delle fiere, così come anche delle missioni all'estero, è riuscire ad andare negli posti dove poi si riesce a seminare sia prima che successivamente. Il cosiddetto follow up. Mi scusi, Lazzarini, per quello che riguarda le sedi all'estero, perché io ricordavo, per essere buoni, il poco edificante racconto di quanto costavano i vari direttori piazzati spesso anche senza meriti in questi posti, ecco, sono stati fatti rientrare prima che arrivasse lei. Allora, avete intenzione di aprirne altre? Allora, sì, lei ha ricordato, i direttori sono tutti rientrati durante la gestione del commissario. Noi tra gli interventi strategici che stiamo facendo è un ridisegno della copertura geografica. Se lei sovrappone in questo momento sulla mappa del mondo le sedi dell'Enit, vede il mondo economico di circa 20 anni fa, una grande presenza sul mondo nordamericano e sudamericano, fortissima presenza in Europa e quasi totale scopertura dei paesi che non possiamo neanche più chiamare emergenti perché ormai sono emersi già abbondantemente. Quindi, giusto per dare un'idea, in Cina abbiamo 2 persone, abbiamo una cosiddetta antenna, che vuol dire che non è neanche un dipendente Enit, una persona pagata da Enit ma che sta in un altro ufficio a Mumbai per coprire tutto il subcontinente indiano. Beh, comodo, da Mumbai farsi tutto il subcontinente indiano come antenna, soprattutto da solo, una parabola deve essere. Abbiamo un'antenna, no, è un'antennina di quelle proprio vecchie analogiche, un'antennina l'abbiamo anche nel Golfo e abbiamo 2 persone in Australia. Con questo copriamo il pezzo di mondo che ormai è diventato il pezzo di mondo che sta crescendo. Chiaro, non possiamo abbandonare i mercati tradizionali, Stati Uniti, Germania, che ci danno milioni di visitatori, ma non possiamo nemmeno dimenticarci queste componenti. Ho incontrato durante la BIT la viceministra russa del turismo, soltanto i turisti russi del turismo balneare l'anno scorso, 7 milioni di russi sono andati in Turchia e in Egitto, quest'anno per evidenti motivi non andranno in Turchia e in Egitto, sono mercati che devono essere seguiti, devono essere seguiti in maniera coerente, d'accordo con tutte le varie componenti del sistema paese che lavorano in quei mercati, ma è chiaro che un ribilanciamento delle risorse, dell'ENI sui paesi a livello internazionale. Io mi auguro che ce la facciate, però volevo capire una cosa, come va con i vecchi dipendenti ENIT? A noi non piace parlare di licenziamenti da nessuna parte, però voglio dire, con quei costi, io citavo anche il caso, così anche per la professione che faccio, dell'ufficio stampa che si è beccato la qualifica da direttore nonostante non fosse direttore di se stesso, cioè con quei costi io non dico farli fuori tutti perché sarebbe brutto, oddio, insomma. Ma riqualificare e decidere chi resta e chi va, beh, quello sì, se volete rilanciare l'ENIT, se no abbiamo scherzato. Ma dottore Veniti, in questo senso non c'è bisogno nemmeno di fare grandi azioni, nel senso che la riforma dell'ente ha lasciato ai dipendenti dell'ENIT italiani la possibilità di scegliere, essendo stato modificato completamente il genere di società che l'ENIT è, non è più un ente pubblico non economico, un ente pubblico economico, quindi si avvicina molto al privato, cosa appunto che questo governo e in particolare il ministro hanno voluto per dare maggiore flessibilità. Anche il contratto di lavoro dei dipendenti dell'ENIT è cambiato, è diventato un contratto privatistico, quindi un contratto in particolare del commercio, per cui è stata data la possibilità ai dipendenti di ENIT di scegliere se passare al nuovo contratto oppure rimanere a disposizione della pubblica amministrazione. Nel nostro caso il 100% dei dipendenti di ENIT ha scelto di rimanere nella pubblica amministrazione, per cui proprio in questi mesi la funzione pubblica sta ricollocando i dipendenti e i dirigenti in altre amministrazioni pubbliche. Devo dire però che da questi mesi di lavoro con le persone che comunque in ENI ci sono, anche delle grandi competenze, statisticamente come in ogni mondo, sia privato che pubblico, ci sono persone molto valide e persone magari un po' meno valide. Devo dire che in questi mesi lavorando in ENIT, vedendo una nuova energia del nuovo consiglio di amministrazione, nuovi progetti, una voglia di fare, anche fondi che il governo ha stanziato diversamente dagli anni precedenti, quest'anno, come dicevo prima, i costi del personale diventano meno del 50% dei costi dell'ENIT, ma perché è aumentata la dotazione finanziaria dell'ENIT. E devo dire che un po' di risorse di alto livello, che comunque hanno esperienza nel mondo del turismo, si stanno dicendo disponibili ed è una cosa che io valuto particolarmente con attenzione. Io vengo dal privato, quindi ho sempre guardato il pubblico con immenso sospetto, come farei, poi io seguo la sua trasmissione, sono anche un pochettino storpiato da quello che dice lei, e devo dire che in questi mesi alcune delle persone che lavorano lì, che hanno grandi competenze, stanno prendendo la decisione di rinunciare allo stato di dipendente pubblico e provarci rimanendo nella nuova ENIT, come chiamiamo noi. Per cui, mi scusi, per concludere, però, Lazzarini, quanta parte dei vecchi dipendenti resterà nella nuova ENIT? No, allora, teoricamente nessuno, stiamo parlando con alcuni individualmente. Che hanno teoricamente nessuno. E i nuovi dove li prenderete? Con che criteri? I nuovi li prenderemo sul mercato, adesso siamo già nel corso di assunzione del direttore esecutivo, c'è già la commissione che se ne sta occupando, abbiamo già aperto due posizioni, tutto con evidenza pubblica, per il direttore commerciale e il direttore finanziario. Stiamo cambiando anche l'organizzazione, ci tengo a dire giusto questo prima che lei mi chiuda, per dire che noi stiamo cambiando anche l'organizzazione, nel senso che il turismo, la gente non viaggia più per andare a visitare un posto, viaggia per vivere delle emozioni e fare un'esperienza, e tutta la nostra organizzazione la stiamo cambiando in quest'ottica qui, ovvero sia stiamo mettendo anche nella parte commerciale delle persone che si occuperanno di prodotti, di enogastronomia, cicloturismo. Guardi Lazzarini, noi tifiamo perché l'Italia abbia, come gli altri paesi, i nostri concorrenti, penso in primo luogo alla Francia, un ente del turismo che funzioni bene, così come con l'ICE abbiamo tifato perché ci fosse un istituto che aiutasse le imprese italiane all'estero. Ancora tutto non è perfetto, però un cambio di passo c'è stato. Quindi mi dica solo l'ultima cosa, quando è che ci risentiamo per capire come avete riorganizzato l'ENIT? Vale, primo le dico che secondo me l'ENIT diventerà anche meglio di quello che hanno gli altri paesi, alcuni di quelli che ho nominato. Secondo, che fino a un mese fa, immersi nella burocrazia di far ripartire l'ENIT, avevamo una visione abbastanza pessimistica. Adesso devo dire che abbiamo cominciato a fare azioni, stiamo facendo le fiere, stiamo facendo nuove campagne anche molto innovative che nessun altro ente ha mai fatto, generazionali, eccetera. Per cui stiamo cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel, ancora presto per mettere gli occhiali da sole, non c'è ancora un grande appaglio. Mi dà una data? Diciamo che ci sentiamo fra un paio di mesetti e avremo già fatto un bel po' di cose carucce. No, facciamo così, che ci sentiamo verso maggio, giugno, prima dell'estate, perché a quel punto qualcosa dovreste aver fatto, visto che i flussi turistici, se ricordo bene, si muovono anche d'estate, c'è questa strana caratteristica di muoversi d'estate. Ci sentiamo a fine maggio, giugno, e vediamo che cosa. Nessuno pretende che lei in 3 mesi, 4 mesi rivoluzioni quello che era rimasto il carrozzone per antonomasia delle nostre partecipate, però che ci sia già un segnale di cambiamento, quello Quello sì, le auguro in bocca al lupo perché l'obiettivo è ambizioso, spero che ce la faccia, lo spero per il paese, non solo per lei o tanto per lei, e ci risentiamo diciamo a fine maggio, inizio giugno, vediamo di capire se siete riusciti già a far partire un meccanismo. A chi mi scrive, ma chi paga lo sconcio di 20 anni? Vabbè, non lo possono pagare loro, ormai quello è uno sconcio di cui la politica ha enormi, i governi enormi responsabilità. Almeno su questo guardiamo il futuro. Grazie a Fabio Lazzarini, appunto neo consigliere delegato di Enit. Traffico. Focus Economia. Allora, la borsa, non riusciamo oggi a fare collegamento con i domeni, ma comunque le nostre inviate sono lì tutta la settimana, li stanno già facendo in effetto giorno, hanno fatto in effetto giorno, lo faranno in effetto notte, mi riferisco a Valentina Furanetto che è appunto al confine tra Grecia e Macedonia, poi vi sarà Valeria De Rosa ad Atene e lì faremo anche la parte soprattutto più economica, compreso il danno, i costi che stanno avendo i rifugiati ad Atene e l'economia greca ancora in ginocchio nonostante tutta la cura, la purga della troica. Vabbè, da borsa oggi -1,20%, Milano -0,30%, Parigi -0,46%, Francoforte -0,27%, Londra +0,35%, il Dow Jones euro quota 1,10%, bene oggi soprattutto Saipem +7,25%, Salvatore Ferragamo +3,53%, e ancora Ferrari +1,90%, Poste Italiane +1,50%, come devo dire anche Moncler, e Tenaris +1,1%. Su Saipem pesa soprattutto il petrolio che oggi ha toccato i massimi da 3 mesi, ci sono giudizi positivi di vari analisti, il lusso ancora dopo i conti di Moncler ne beneficia in primo luogo Moncler +1,50%, e tra l'altro il colosso bancario svizzero HSBC ha inserito Moncler nella top 10 a livello europeo dei titoli su cui investire. Fronte opposto invece per tutte le banche popolari, bisogna capire cosa porteranno le fusioni e poi c'è anche un po' di speculazione senza giustificazione. -5,17% la Pop Emilia Romagna, -4,70% il Monte dei Paschi, -4% il Banco Popolare, -3,70% Ubibank. Telecom Realizzi era cresciuta nelle ultime sedute -3,70%, e Atlantia la stavo ricercando perché l'ho vista un po' debole oggi, eccola qua, -1,40%, nonostante abbia diffuso i conti sul 2015, l'utile va a 853 milioni +15%, i ricavi +4%, ne ha proposto un dividendo per la ex Autostrade per l'Italia di 88 centesimi di euro per azione. Il traffico autostradale è aumentato nelle prime 9 settimane del 2016, +4,5% rispetto allo stesso periodo del 2015. Per quello che riguarda invece le autostrade cilene, perché Atlantia ha anche controllo delle autostrade cilene e brasiliane, +4,5%, il Brasile, a dimostrazione che questo è un indicatore anche di come va un'economia, la recessione si vede anche dal traffico autostradale, -4%. Migliori e peggiori in assoluto oggi sul listino, segnalo Energica Motor Company +10%, Media Contact +7,90%, poi Saipem. Fronte opposto invece Zucchi -8,80%, Vita società editoriale -8,80%, poi la Cassa di Somme di Genova -7,80%, Rizzoli Corriere della Sera -6,20%, la Pop Sondrio -5,60%. Ma visto che parlavamo poco fa con il neo numero uno di Enit dell'importanza del Made in Italy, del turismo, alcuni mi scrivono, beh, il turista che viene in Italia vivrà sicuramente forti avventure ed emozioni, sì, basta che siano positive. Oggi c'è stato l'appuntamento più importante per premiare l'eccellenza del Made in Italy e mi riferisco alla cerimonia al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella per la consegna del premio Leonardo 2015. Lo ha vinto come premio complessivo l'amministratore delegato del gruppo Zegna, Emnegildo Zegna, per essersi particolarmente distinto nel promuovere l'immagine dell'Italia nel mondo. Questo è l'obiettivo del premio. Tra i riconoscimenti assegnati invece a altre categorie, i premi Leonardo Qualità Italia, per chi ha maggiore vocazione all'export, assegnati da Davide Campari e ritirati dal presidente Luca Garavoglia, alla bolognese IMA, guidata dal presidente mister legato Alberto Vacchi, al presidente Giovanni Rana per il pastificio Rana e al presidente Silvano Pedrollo per la Pedrollo S.p.A., leader nel nord-est, ma leader in Italia nel settore delle elettropompe, e alla Fiam Italia, l'azienda di arredo in cristallo, di cui è presidente e fondatore Vittorio Livi. Il premio Leonardo International ad Ahmad Purfallah, presidente della Camera di Commercio Irano-Italiana. E ascoltiamo allora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sull'invito di fronte a centinaia di imprenditori ad avere fiducia nelle risorse che ha l'Italia. È necessario uno sforzo congiunto di aziende e istituzioni per rilanciare la competitività e un modello di sviluppo basato sulle conoscenze e l'alta qualità, con importanti investimenti nel capitale materiale, ma anche in quello immateriale, delle competenze e della capacità, e in quello sociale. Dobbiamo cercare sempre più di costruire reti per le imprese, a partire da quelle che trainano l'export. Mai come oggi ci appare evidente che il nostro interesse e il nostro futuro risiedono nella capacità di andare oltre le frontiere. La qualità, in questo caso, va accompagnata a strutture più solide, con la possibilità di disporre di capitali adeguati, capaci di affrontare i mercati globali. Un anno trascorso al Quirinale ha rafforzato la mia convinzione che l'Italia dispone di risorse straordinarie che costituiscono già un ponte prezioso verso il futuro. Dobbiamo avere fiducia in noi stessi. E poi il passaggio del presidente di Confindustria Squinzi, sempre sulle caratteristiche anche di questa nuova rivoluzione industriale. Poi un giorno riusciamo a parlare anche di questo, di come si è cambiato al di là della crisi. Sono cambiati i modelli produttivi, i modelli di consumo, e sono cambiati per sempre, nel senso, per i prossimi anni la crisi non c'entra nulla. Comunque, Squinzi sulla nuova rivoluzione industriale. Siamo entrati in una nuova rivoluzione industriale, quella della cosiddetta intelligenza artificiale, una straordinaria accelerazione dei sistemi di produzione e digitalizzazione dei processi. Una rivoluzione che andrà a modificare in profondità il profilo della produzione e del lavoro in generale, con conseguenze ancora tutte da valutare. Tutta la nostra esperienza umana dimostra quanto questa affondi le sue radici più profonde nel lavoro, in tutte le sue declinazioni e posizioni, non solo per una necessità economica, ma per il bisogno di realizzarsi dimostrando le proprie capacità e la propria utilità per sé e per la società nella quale siamo inseriti. Questa sfida, che connetterà gli anni a venire, riguarderà gli atteggiamenti e la mentalità di tutti i soggetti coinvolti, ognuno nel suo ruolo e per le proprie responsabilità, a tutti i livelli: imprenditori, manager, lavoratori, rappresentanti delle parti sociali, il modo di intendere la persona e il suo lavoro, i criteri con cui si prenderanno le decisioni e definiranno gli obiettivi. Allora, domani parleremo anche del punto che si è fatto sulla mobilità oggi in Asso Lombarda col presidente Rocca e il ministro Delrio. Toccheremo altri temi e ci occuperemo di Grecia. Chiedo venia se non ce l'abbiamo fatta oggi, ma voglio dare uno spazio, lo spazio che merita, uno spazio quindi abbastanza importante a quel tema. Mi scrive un ascoltatore: oggi, come vedete, non ho polemizzato con nessun ascoltatore. Mi scrive un ascoltatore: Barisoni, così giovane e sta già invecchiando. Insomma, non penso di essere così giovane, sicuramente sto invecchiando anch'io. Spero non nella conduzione, nei temi. Ci sentiamo domani. Intanto l'auguro di una buona serata. A domani. Radio 24. La passione si sente.